Letture di Radio 24. In Arabia Saudita ci sono luoghi dove le donne non sono obbligate a indossare il velo e possono guidare anche senza il permesso di un guardiano maschile. Sono i compound, vere e proprie roccaforti riservate esclusivamente agli occidentali, che si trovano lì per ragioni di lavoro. Sai, loro non vogliono mischiarsi con i sauditi, tutto qui. Preferiscono stare con i loro simili, vivere in modo libero senza essere disturbati. Mi racconta Zamil in una delle nostre chiacchierate su Skype, che ormai sono diventate un appuntamento fisso del pomeriggio in redazione. Zamil è un ingegnere saudita di 30 anni, laureato negli Stati Uniti, che vive e lavora ad Amman, una città portuale all'estremità orientale del paese. Loro sono gli occidentali che abitano per ragioni di lavoro in Arabia Saudita, un esercito di decine di migliaia tra europei, statunitensi e canadesi, si stima che i soli americani siano oltre 35.000, impiegati per lo più nei settori petrolifero, finanziario e delle costruzioni, e che conducono una vita parallela, ermeticamente sigillata dalla realtà saudita e, quel che più conta, dalle severissime norme sociali e religiose che regolano ogni aspetto della quotidianità nel regno. Per intenderci, in Arabia Saudita è illegale bere alcol, consumare cibo haram, ovvero non confacente alle norme alimentari musulmane, e praticare qualsiasi religione al di fuori dell'Islam. I luoghi pubblici, ristoranti e centri commerciali compresi, hanno ingressi separati per maschi e femmine. Le donne sono obbligate a indossare il velo e la baya, una sorta di caftano nero lungo fino alle caviglie. Non possono guidare né circolare liberamente senza il permesso scritto di un guardiano maschile, ovvero padre, marito o, nel caso delle vedove, un figlio. Dulcis in fundo, è rigorosamente vietato alle coppie non sposate di incontrarsi in luoghi pubblici. Tutto questo è fatto rispettare dalla ormai famigerata polizia religiosa, detta anche Commissione per la promozione della virtù e per la prevenzione del vizio. I poliziotti religiosi si sono meritati le prime pagine di tutto il mondo nel marzo del 2002 perché hanno impedito a un gruppo di allieve in una scuola femminile della Mecca di fuggire dall'edificio in fiamme in quanto non indossavano la baya. 15 ragazzine sono morte nell'incendio. Tutto questo non è fatto rispettare nei cosiddetti compound per occidentali, dove la polizia religiosa non può entrare e dove europei e nordamericani vivono relativamente indisturbati. Si tratta di vere e proprie gated communities, dove non solo l'accesso è strettamente riservato ai residenti, ma dove vigono leggi completamente separate rispetto al resto del paese. Insomma, uno stato nello stato. Basti pensare che nei compound per occidentali, che il più delle volte sono composti da villette di lusso con piscine comuni e altre amenità come cinema, palestre e centri commerciali, le donne possono guidare, vestirsi come più gli pare e in alcuni casi persino prendere il sole in bikini. Nessuno disturba le coppie non sposate e, cosa ancora più scandalosa, circolano persino bevande alcoliche, seppure in quantità limitate e per lo più distillate in loco. Scordatevi Barolo e Amarone. La vita dentro il compound è come essere tornati negli Stati Uniti o nell'Europa occidentale, commenta uno dei residenti in un forum dedicato a chi si sta per trasferire in Arabia Saudita, che però poi aggiunge: ma appena usciti fuori, assicuratevi che vostra moglie indossi la baya. In Arabia, quello dei compound per occidentali, che nonostante siano preclusi ai locali, sono quasi tutti gestiti da cittadini sauditi, è anche un business di successo. Tanto che esistono compagnie specializzate nell'affittare appartamenti in una di queste gated communities a europei e americani che si preparano a trasferirsi, prima ancora che mettano piede nel paese. The Right Compound ha anche aperto una pagina su Facebook, digitare Saudi Compounds, che da mezzo pubblicitario si è presto trasformato in uno strumento di comunicazione tra gli occidentali residenti in diverse province dell'Arabia, che a furia di stare chiusi nei loro compound sono in cerca di qualche faccia nuova con cui scambiare impressioni, consigli e pettegolezzi. Ma anche per i giovani sauditi un po' incuriositi e forse un po' invidiosi, alla perenne ricerca di qualche europeo o nordamericano con cui fare due chiacchiere illuminate. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Anna Momigliano, Bikini e Martini in Arabia Saudita, dal numero 2, maggio-giugno 2011, della rivista Studio. Letture di Radio 24. Nel maggio del 1968, sull'onda del successo del Festival di Woodstock, arriva anche in Italia il primo grande raduno pop. Lo organizzano due hippie americani, Trisha e Jerry Fife. Delusi dal recente Festival di Monterey, che era stato monopolizzato dagli imprenditori dello show business, i due fratelli scelgono Roma per cercare di ridare ai raduni quell'impronta popolare dalla quale erano partiti. Ma l'evento si rivelerà un disastro. Il progetto dei due californiani appare troppo ambizioso da gestire. Dopo vari incontri e sopralluoghi in giro per l'Europa, il nucleo organizzativo si allarga sino ad includere realtà non propriamente alternative, comprese una serie di agenzie di spettacolo londinesi. Ma la linea guida è ferma. Vogliono fare un festival che appartenga al popolo, in contrasto con il business di Monterey. Sarà per la musica quello che le Olimpiadi sono per lo sport. Un evento nobile e slegato dalle logiche commerciali. Segue un periodo di confusione totale, sinché viene comunicato che il Festival del Riscatto, First International Pop Festival, si terrà incongruamente all'interno di una città e, sorpresa, la scelta è caduta su Roma. La candidatura, arrivata dopo aver scartato Amsterdam perché troppo piccola e non attrezzata per la grande massa di pubblico prevista, è spiegata in puro stile mistico stonato. La città è l'occhio di un vortice vibrazionale dotato di un'inaudita potenza, talmente potente che la sua influenza karmica sta toccando l'intero pianeta. Altra stranezza, la location dove si esibiranno i gruppi non sarà uno dei tanti bei parchi cittadini a disposizione, ma il palazzetto dello sport dell'Eur, opera di Pierluigi Nervi, che pare aver stregato i promoter con le sue forme da astronave in cemento armato, perfetta per lanciare buone vibrazioni sull'intero continente, offrendo gioia e speranza e facendo incontrare la gente. Tra i supporter entusiasti ci sono E.T. e It Week, e nel comitato organizzativo spunta il nome di Mick Jagger. La faciloneria e l'inesperienza del team non aiutano gli inviati del festival, che sono andati a caccia di adesioni in California. Nonostante il team dia per scontata la presenza di gran parte dei gruppi psichedelici già apparsi a Monterey, gli imprenditori del luogo fanno di tutto per sabotare gli accordi. La rivista Rolling Stone pubblica il 10 febbraio 1968 la notizia del preannunciato Festival Pop di Roma. Pur non nascondendo una certa incredulità per la scelta della location, siamo pur sempre il paese dei mandolini. Nell'articolo in prima pagina l'evento viene definito assai misterioso e improbabile. Se quello che dicono i promoter risponde al vero, si tratterebbe del più grande evento rock della storia. Una cinquantina di gruppi tra San Francisco e Londra avrebbero già firmato e assicurato la loro presenza. Vengono fornite altre informazioni. La manifestazione sarà una gara con premi finali e l'incasso verrà devoluto in beneficenza. I giornali underground sono in fibrillazione. Agenzie offrono viaggi organizzati, prospettando una calata in massa di hippies a Roma. Il festival, annunciato per la fine di febbraio 1968, viene spostato a maggio per motivi tecnici. Il cartellone è ben lungi dall'essere completato, anche se trapelano nomi sempre più incredibili. In Italia non è coinvolto nessuno, a parte un nobile romano con un titolo altisonante messo nel comitato direttivo. È insomma un evento calato dall'alto, senza avere alcuna conoscenza del territorio. Da noi non c'è ancora una scena underground vera e propria su cui fare riferimento. E, particolare non secondario, il team sembra ignorare che il pubblico locale per questo genere di musica è virtualmente inesistente e, se ci fosse, sarebbe considerato solo un problema di ordine pubblico. Non sono passati molti anni dalle interrogazioni parlamentari contro la presenza dei complessi beat in televisione. L'opinione pubblica non ama i capelloni, che siano muniti di chitarra o no. Tendenzialmente vorrebbe risolvere il problema in maniera radicale, con rasature di massa nelle piazze e condanni ai lavori forzati. L'Italia ha già sperimentato Sanremo, il Cantagiro e i Festival dell'Unità. Si appassiona alle gare canore proposte dalla TV di Stato, genere canzonissima, ma non è ancora sintonizzata sull'onda rock. Quello che sarà ufficialmente il primo pop festival sul suolo italiano è in calendario dal 4 al 10 maggio 68. Il cartellone è di tutto rispetto, anche se sono saltati alcuni nomi eccellenti già dati come certi, dai Cream ai Jefferson Airplane. Inoltre i promotori dicono di avere un asso nella manica, un supergruppo, di cui riveleranno il nome solo l'ultimo giorno. Il 4 maggio si esibiscono Julie Driscoll, Hughes O'Fray, Donovan, Captain Beefheart. Il 5 maggio, Ten Years After, Fairport Convention, Grapefruit, un gruppo jugoslavo Roboti 5 Up, un gruppo giapponese The Samurai. Il 6 maggio è l'apoteosi con i Pink Floyd, The Nice, The Move, I Giganti, The Association. C'è solo un piccolo particolare. Giorno dopo giorno ci si accorge che manca il pubblico. Non c'è stata l'auspicata invasione dal nord Europa. Inglesi e olandesi sono solo un centinaio, molto scenografici nei loro vestiti floreali, ma inconsistenti per gli incassi. Le presenze durante tutto lo svolgimento del festival non supereranno le 4.000 unità, con punte di 400 persone al giorno, non tutte paganti. In compenso, la presenza di poliziotti è decisamente superiore alla media. Siamo pur sempre nel 1968 e dove ci sono giovani potrebbero sorgere guai. La visione dei gruppi che suonano in una struttura semivuota è desolante. Due tecnici della televisione olandese incaricati di riprendere il festival esclamano sconsolati: «C'è qualcuno in questo rovente ammasso di rovine antiche a cui freghi qualcosa di Donovan, Captain Beefheart, Julie Driscoll e compagnia?» Vengono mandate in giro per la città ragazze in minigonne e viso dipinto con fiori per promuovere il festival. Gli stessi organizzatori, in preda alla disperazione, escono per offrire biglietti gratuiti ai passanti. Purtroppo l'Eur non è un luogo di grande traffico. Comunque i Pink Floyd fanno un grande concerto, così come i Nice, trascinati da Keith Emerson. Ma saranno i Move a lasciare il segno. Già alla dogana erano stati fermati per possesso di un hash, la cui presenza nel bagaglio era stata giustificata come strumento di scena. Peccato che le guardie di frontiera non abbiano aperto tutti i bagagli al seguito. Durante il concerto, i Move scatenano il pubblico, usano i microfoni come corpi contundenti, fanno esplodere sul palco una serie impressionante di fuochi artificiali e fumogeni, contenuti nei loro bagagli, e distruggono gli strumenti e l'amplificazione, noleggiata a Roma. La polizia, che non è stata messa al corrente del copione dei gruppi inglesi, comprensivo di estasi distruttiva finale, dopo aver sparato qualche lacrimogeno dentro la struttura, interviene con gli estintori, trasformando il palco e il gruppo in una scultura di schiuma. I Move vengono arrestati, gli agenti caricano i ragazzi che, divertiti dall'happening, non si spostano al loro passaggio. Gli organizzatori riescono a fatica a convincere gli agenti a lasciare esibire il gruppo successivo, gli Inoffensivi Association, dopo aver pulito il palco devastato. Il 7 maggio è la catastrofe. Il service tecnico, infuriato per i danneggiamenti, si rifiuta di fornire nuova strumentazione e vuole essere risarcito immediatamente. La polizia, temendo nuovi incidenti, vieta l'utilizzo della struttura. Si decide di sospendere il festival. Vengono cancellati gli ultimi 3 giorni. Niente sorpresa finale. Traffic, Odetta, Camaleonti e Soft Machine non suoneranno. Le ultime esibizioni previste per la giornata, Grapefruit, Family e Birds, si trasferiscono coraggiosamente al Piper. A dispetto del luogo inadatto e della tensione, il concerto finale è di altissimo livello. I Birds, una volta scaldati, prendono gusto alla faccenda e suonano ben oltre il tempo a loro concesso. Peccato che il pubblico, oltre ad essere scarso, è anche indisponente. Parla e si muove durante tutto lo show. La rivista americana Billboard, con un articolo Flop Festival, informa il mondo dello spettacolo dell'ingloriosa fine di un evento nato male che si è accartocciato su se stesso. È una figuraccia per gli organizzatori, che hanno sbagliato città, location e perso molto denaro. È una soddisfazione per le vere agenzie di promozione musicale che avevano scommesso sulla disfatta del team improvvisato. È anche una batosta per il nostro paese, che conferma la sua arretratezza culturale. Una buona scusa per rinfocolare il razzismo nordico, che troverà spazio persino su It Week. In un pezzo pubblicato ancora caldo, si descrive l'impossibilità di far funzionare le cose in una nazione di mangia spaghetti baffuti, ladri, inconcludenti e corrotti. È un'occasione sprecata che non si sarebbe più ripetuta negli anni a venire. Per la serie Perle ai porci, il festival avrebbe dovuto avere anche una coda milanese al Teatro Lirico, che ovviamente sarà cancellata. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Matteo Guarnaccia, Re Nudo Pop e altri festival, Il sogno di Woodstock in Italia, 1968-1976, Volo Libero Edizioni, libro più DVD, €39,90. La lingua italiana non è una sola, ma si differenzia, oltre che nei numerosi dialetti, anche tra lingua parlata e lingua scritta, tra burocratese e lingua accompagnata dai gesti. E poi c'è l'italiano usato dai medici per scrivere le ricette, una lingua a sé stante pressoché incomprensibile, come sottolinea Paolo Villaggio nel suo Prontuario comico della lingua italiana. I medici hanno la perfidia di usare nei ricettari caratteri quasi invisibili per il 70% della popolazione, e cioè dai 40 anni in poi. Da molti disgraziati, gli otorinolaringoiatri sono confusi spesso per idraulici e loro si vendicano e scrivono in geroglifico. Soffre di ipoacusia di quarto grado, ma non è ancora cafuso. Accusa inoltre presbiacusia, presbiofrenia, presbiopia, diplofonia, diplegia, diplopia. Nessuno, neppure Sgarbi e Zecchi, è in grado di capire quello che scrivono questi farabutti. Dopo aver torturato uno di questi specialisti, traduciamo. Ipoacusia, sordità di quarto grado. Cafuso, sordo come una campana. Presbiacusia, distorsione del suono delle parole dovuta alla diminuzione dell'udito nella vecchiaia, cioè capire fischi per fiaschi. Presbiofrenia, demenza senile, cioè rincoglionimento grave. Presbiopia, incapacità di vedere gli oggetti vicini, di leggere gli orari ferroviari e le controindicazioni sui fogli illustrativi dei farmaci, causa questa di molti decessi archiviati dalla polizia come morti per motivi ignoti. Diplofonia, tipico disturbo di molti anziani che dicono una parola per un'altra. Esempio, per chiamare la moglie, Maria, vieni qui, dicono merda, vieni qui. Molti mariti, lucidissimi, fingono questo disturbo. Diplegia, paralisi di due parti simmetriche del corpo, esempio orecchie, braccia, mignoli, eccetera. Molti mariti, dopo 20 anni di matrimonio, simulano questo disturbo all'apparato genitale. Diplopia, vederci doppio. Per i veci alpini furlani è dovuta all'assunzione di 7 graspe a stomaco vuoto, fenomeno diffuso nei loro agghiaccianti raduni che, fortunatamente, si stanno estinguendo per cirrosi epatica dei partecipanti. Avete ascoltato la lettura di un capitolo del libro di Paolo Villaggio, Mi dichi, prontuario comico della lingua italiana, Mondadori, 130 pagine, 15 euro.